música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Io sono una persona mediamente tranquillo e non metterei mai le mani addosso a un'altra persona, anche perché non c'ho proprio il fisico. Però da un paio di giorni sto tartassando i miei amici su Facebook con una domanda e ho stampato in questo momento 20 pagine di risposte tra quelli che alla mia domanda hanno voluto appunto aggiungere una loro esperienza personale o una loro riflessione sul tema, sulla provocazione che vi ho lanciato. Mettereste mai le mani addosso a un altro essere umano per fargli male, per creargli un danno fisico, per neutralizzarlo, per difendervi, ma anche per offenderlo, per risolvere una questione che altrimenti civilmente si risolve attraverso il dialogo, attraverso il dibattito, attraverso le denunce, attraverso l'affidarsi comunque alla legalità? Insomma, da quanto tempo non fate a botte? Avete mai fatto a botte? Avete mai messo le mani addosso a un'altra persona? Avete mai sentito l'odore e il sapore del vostro sangue perché un altro vi ha spaccato il naso, un altro vi ha dato un pugno sul labbro? Avete mai sentito lo scricchiolare delle ossa, delle costole di un'altra persona perché voi infierivate sulla sua cassa toracica? Stiamo parlando di qualcosa totalmente fuori dal mondo, fuori dalla nostra percezione di esseri umani civilizzati. Io naturalmente, facendo questa domanda, ho escluso a priori, avendo grande disprezzo e grande raccapriccio per queste categorie, tutti coloro che picchiano le mogli, picchiano i bambini, fanno violenza gratuita verso persone inermi, gli ultras allo stadio, quelli che si picchiano per la politica, e quelli che si fermano al semaforo, scendono dalla macchina, ti bussano sul finestrino, dicono scendi, oh, che c'è da di, e cose del genere. Insomma, ho un profondo disgusto nel vedere rappresentazioni di violenza fisica. Non mi piacciono le persone che litigano, non mi piace la gente che fa botte, trovo patetici, grotteschi. Quando vedi per strada la gente che litiga e si mette le mani addosso, è esattamente l'opposto di quello che si vede nei film. Nei film è tutto bello, plastico, le persone si colpiscono, cadono a terra. No, quando la gente fa botte per strada è ridicolo, sono goffi, si danno delle grandi manate, dei grandi calci, urlano, strillano, si scompongono il vestito, cascano i capelli. Le donne poi sono terrificanti quando fanno a botte, si danno grandi schiaffi, si graffiano, si tirano per i capelli. Eppure nell'animo profondo di ognuno di noi, esseri civilizzati, esiste un'antica, una repressa, una serpeggiante voglia di mettere le mani addosso a un'altra persona, di mettere le mani addosso per sanare un torto, di mettere le mani addosso per difendere un inerme, di mettere le mani addosso per riportare giustizia dove ci rendiamo conto che non c'è giustizia. È chiaro, esistono le vie legali, esiste la comprensione, esiste il dibattito, esiste la dialettica, però profondamente quanti di noi metterebbero le mani addosso a un altro? Beh, a me mi hanno scritto veramente centinaia di persone, fuorviando il problema, cominciando a dire bisogna mettere le mani addosso ai figli, bisogna picchiare i figli, bisogna essere severi con i figli se non impareranno mai nella vita, prendendola alla larga. Poi alla fine si sono sfogati, poi alla fine si sono aperti, poi alla fine hanno dichiarato quello che sarà il tema di questa mattina: metteremmo mai le mani addosso a un'altra persona? Come fare a botte? Raccogli le forze da ogni lembo della tua pelle e legale al centro del tuo asse. Prendi un respiro diaframmatico, come se non dovessi respirare mai più, mai più. Colpisci al petto, colpisci al petto, alle spalle, alle braccia, alla faccia, allo stomaco, aumentando pugno dopo pugno l'energia. Colpisci senza badare al dolore che ricevi. Non ascoltare i sentimenti, ma esaltati nell'urto. Quando il tuo avversario sembra diminuire la forza del suo pugno o l'energia del suo calcio, incitalo. Mi scrive istantaneamente Flavio, mi dice: anch'io non ho mai avuto intenzione di menare qualcuno, ma da quando vive a Parigi, ci scrive su Facebook, per esempio cammino nei quartieri zeppi pieni di gente e mi viene spesso il riflesso di spingere con le mani quelli che mi vengono addosso, mettere le mani addosso per allontanare la calca. Parigi, unica città europea, ha densità asiatica. E questa è la citazione da un libro di una persona che abita a Parigi, ma la stessa sensazione, lo stesso desiderio viene a ognuno di noi quando la mattina scende dall'autobus, scende la metropolitana e trova la calca di folla che vuol salire e gli impedisce di scendere. Viene voglia di dare un calcio, viene voglia di dare una borsata in testa, voglia di dare una gomitata, viene voglia di sentirsi guerriere in quel momento per vincere la oppressione e l'insipienza della calca che non ti fa nemmeno scendere per un istante dall'autobus. Combatti non per odio, non per prepotenza. Combatti per resistenza e con energia. Allena il guerriero che è in te. Scopri ogni nervo, spremi ogni muscolo, sputa e vomita, attacca e colpisci. Attacca e colpisci. Non ha importanza chi vince. Il dolore delle pacche, se perdi, è la tua forza. La soddisfazione della vittoria è la tua forza. Quando l'agone è finito e il sudore ti acceca e brucia gli occhi, abbraccia il tuo avversario. Abbraccia il tuo avversario e bevi con lui un boccale di birra. Questo folle decalogo di come si fa botte è la filosofia profonda che anima Fabrizio Intonti e Paolo Corleone, che sono applicati con grande passione a rendere sonoramente qualcosa che abbiamo preso dalla rete. La rete è piena di manuali di come si fa botte, la rete è piena di velleità di combattenti, di guerrieri e di eroi, di persone che vogliono assaggiare il sangue del nemico soltanto per sentirsi uomini come non ci sente più in questa società civilizzata. Questo profondamente è un grande problema. Oggi c'è un grande senso di ripulsa nei confronti del fisico, anche se il fisico e il corpo sembra idolatrato, attorno al corpo si stabilisce un sistema di protezione, di deificazione, di costruzione di simulacri di fascino che interessa ormai l'immaginario di gran parte della popolazione civilizzata, ma allo stesso tempo non conosciamo l'impatto violento con il corpo, a meno che noi abbiamo delle uscite dal nostro tempo, dalla nostra realtà, quando noi incappiamo, appunto, come descriveva il trattatista, il pezzo del libro dell'abitante di Parigi, quando entriamo in ambienti fisici che non sono i nostri, quando camminiamo a piedi in un quartiere che non è quello a cui siamo abituati, quando ci troviamo in una stazione, quando ci troviamo in un luogo che non reputiamo familiare. Improvvisamente ci sono delle persone che ci guardano, che ci sfiorano, che ci toccano, che ci minacciano, che sentiamo che il contatto fisico fa parte dei codici di quel posto che non sono i nostri codici. Ma in realtà nei nostri asettici uffici, nei nostri bei supermercati, nelle nostre pulite linde strade, nei bei locali dove andiamo a pranzo e a cena, incontriamo tante persone come noi, persone che a volte disprezziamo, che a volte odiamo, che a volte da cui ci sentiamo fortemente oppressi o fortemente lesionati della nostra interiorità. Ma ce n'è mai il desiderio di menare le mani e di avere questo liberatorio sfogo pur non appartenendo noi a quella genia di persone violente, di persone cattive, di persone che fanno appunto della violenza il loro culto? 800 24 00 24. Avete mai fatto, fareste mai a botte? Quando è stata l'ultima volta avete dato un pugno a un'altra persona? Devi farmi un favore. Sì, certo. Colpiscimi più forte che puoi. Cosa? Voglio che tu mi colpisca più forte che puoi. Cosa vuoi che faccia? Devo colpirti. Forza, solo questo a favore. Perché? Perché? Non lo so, perché non lo so. Non mi sono mai battuto, tu? No, ma questo è un bene. Non è vero, quanto sai di te stesso se non ti sei mai battuto? Non voglio morire senza cicatrici. Perciò picchiami, sennò perdo il coraggio. Oddio, è da pazzi, io non... E allora fai il pazzo, molla un gancio. Senti, non ne sono convinto. Ma è da pazzi, tu vuoi che ti colpisca? Proprio così. Dove? Tipo in faccia? Sorprendimi. Ah! Figlio di puttana! Ah, mi hai colpito all'orecchio! Oh, signore, mi dispiace! Ma perché sull'orecchio? Ho fatto una puttanata! No, sei stato perfetto! Lo avrete senz'altro riconosciuto perché è stato il primo immaginario che mi è stato suggerito dalle centinaia di persone che hanno scritto raccontando prima timidamente, girando intorno al problema, poi sempre più direttamente, le loro esperienze metropolitane di scontro fisico. Loro, personaggi in giacca e cravatta, signore in tailleur, almeno una volta nella vita hanno desiderato di farlo e molti poi l'hanno fatto veramente, come l'ha fatto Edward Norton, il protagonista di Fight Club, il film del 99, è tratto dall'omonimo romanzo di Chuck Palahniuk, parla di un giovane yuppie frustrato, insonne, logorato dalle competizioni della professione, la vita che lo portava a fare avanti e indietro in aereo, che a un certo punto allucina il Fat Club, un luogo dove si incontrano in un basso fondo, in una specie di cantina, tanti personaggi come lui, soffocati dalla violenza della vita moderna, che reagiscono liberando questa forza bruta, questo desiderio di picchiarsi, e cominciano a picchiarsi, si picchiano selvaggiamente tra di loro, come nel manuale per come si fa botte che abbiamo preso in internet, senza odio, senza nessun astio. Il loro nemico in realtà non gli ha fatto nulla, non ha nessuna colpa se non quella di prestare un corpo, degli organi, del sangue che sprizza fuori, delle ossa che si rompono, dei denti che saltano, delle labbra che si fendono, delle tempie che vanno ricucite, un bersaglio per poter sfogare una sorta di forza primitiva, una forza brutale, che l'uomo moderno sembra non aver più possibilità di incanalare se non attraverso lo stress, attraverso una sorta di sottile e a volte deleteria e terribile violenza che si manifesta attraverso, non so, la competizione nel luogo di lavoro, attraverso il tradimento, la vigliaccheria, la maniera di uccidere, far male e lentamente dissolvere altre persone, ma attraverso strumenti semplicissimi, come appunto i consulenti aziendali, ad esempio, perfetti strumenti di violenza sull'individuo che determinano come, quando e in che maniera si possa annientare psicologicamente una persona perché magari, non so, è di peso in un'azienda. Ricky, un ragazzo del mio ufficio, non ricordava se avevi ordinato inchiostro blu o nero. Ma fu un dio per 10 minuti, quando castigò il cameriere di un ristorante a portar via. A volte sentivi solo il sordo rumore dei pugni al di sopra delle grida. O il soffocamento bagnaticcio quando qualcuno spruzzava sangue. Da nessun'altra parte ti sentivi vivo come lì. Ma il Fight Club esiste solo nelle ore tra l'inizio del Fight Club e la fine del Fight Club. Anche potendo dire a uno che aveva fatto un bel combattimento, non avrei parlato con lo stesso uomo. Chi eri nel Fight Club non corrispondeva a chi eri nel resto del mondo. Un tizio, la prima volta che venne al club, aveva il culo che era un ammasso di pasta lievitata. Dopo qualche settimana era scolpito nel legno. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, buongiorno signor Nicoletti, che onore e piacere di sentirla. Dunque lei è un esperto di scontro fisico perché lo fa per sport, l'ha fatto per tanti anni. Sì, lo fa, ho smesso da 3-4 anni, perché ormai ho un po' la stanchezza, un po' la cosa, non mi piaceva più, però l'ho fatto per quasi 30 anni. Sì, io mi sono sempre picchiato, diciamo, quasi tutti i giorni, perché faceva parte di questo sport, ma la strada però non l'ho mai fatto. Non l'ho mai fatto, ho sempre cercato, quando mi è capitato, io sono anche uno che viaggia molto, quindi sono in giro dalla mattina alla sera con la macchina, ho sempre cercato di evitare, anche per il fatto che non è la questione di prendere un pugno in faccia o magari dare un pugno in faccia, il fatto è che se poi capita di peggio, la cosa diventa pericolosa, invece ammazzi qualcuno. Beh, lei essendo un esperto di arti marziali sa che è una persona differente rispetto all'uomo che stiamo cercando di identificare questa mattina. È la persona che non è abituata a risolvere i propri contrasti, i propri scontri, sì, le proprie frustrazioni in altra maniera attraverso gli strumenti legali possibili o naturalmente non certo corretti, ma che fanno male senza mai arrivare allo scontro fisico. Si preferisce annullare, demolire, usare maniere indirette per colpire un avversario quando magari sarebbe più liberatorio dargli un calcio nel sedere. Lei ha un'arma in mano, essendo un karateka. Sì, sì, in effetti questo è anche vero. Ci sono anche persone che per dire usano magari anche le mani solamente perché magari non riescono ad arrivare con ragione. Questo non è assolutamente una bella cosa. Lei prima parlava anche di discorso di violenza delle donne in casa, dei bambini, soprattutto di uomini, perché l'uomo che è quello che ha la forza, quello che ha potenza, è difficile trovare una donna che sia forte, anche se comunque ce ne sono. Io un po' adesso ne ho conosciute di ragazze che ha voglia di trovare uomini che possono picchiarle. Guardi, però, tra le persone che mi hanno scritto, la maggior parte di persone persone che mi descriveva un reale episodio di combattimento fisico, ma non da professionisti, da dilettanti, da persone che una volta nella vita non ce l'hanno fatta più, hanno messo le mani addosso un'altra. La maggior parte sono donne. Ho una casistica, e qualcuno ne farò ascoltare, di donne che non ce l'hanno fatta più, a un certo punto hanno messo le mani addosso a chi faceva loro una violenza, un torto. Quindi non è poi nemmeno tanto vero che le donne non abbiano questa attitudine a ritornare a una soluzione fisica. Sì, diciamo che nei casi che quando capita nei casi, in effetti sono quelle persone che proprio sono allo stremo, anche perché diciamo che nella violenza fra persone, in strada, in famiglia, in genere l'uomo tende sempre può ritirarsi, magari parla, urla, grida, ne fa di tutti i colori, ma poi prima di arrivare alle mani, insomma, di tempo ne corre. In genere la donna, quando magari è frustrata, quando non ce la fa più, quando allora alla fine ricorre proprio alle mani, mette le mani addosso all'uomo, poi in qualche maniera fa male, usa degli strumenti, usa qualcosa, ma quando proprio è disperata picchia, allora a questo punto sì. Grazie Giuseppe, buongiorno Fabio. Fabio, buongiorno. Lei qualche volta ha messo mani addosso. Vorrei fare una premessa, Fabio, sì? Se non sono stato abbastanza chiaro. La mia non vuole essere un'istigazione a fare botte, vuole essere un tentativo di tirare fuori, se esiste, questo istinto sopito, e capire attraverso quali altri canali noi poi esprimiamo la nostra violenza quando ci sentiamo oppresse un'altra persona. Quindi non voglio dire ai nostri ascoltatori che sarebbe bene fare a botte, però voglio capire se questo istinto ha colpito qualcuno, o se capita al di fuori delle situazioni canoniche, cioè a uno stadio, a una manifestazione politica, in un bassofondo di una grande metropoli, circondati da teppisti, in cui viene questa occasione fare a botte. Prego Fabio. Allora, a me è successo solo una volta, non di fare a botte, ma delle sane spintonate, sì, insomma qualche ceffone, in una piazzola dell'autostrada, bloccati dalla neve da non so quante ore, e quindi a un certo punto ci davano le scatole un pochino a tutti con un altro automobilista. Successe uno scambio di idee abbastanza violento. Se no, non ho mai fatto a botte, le mani in tasca per non menarle l'ho tenute diverse volte, ma questo nei riguardi della mia fortunatamente ex moglie. Poi lei rientra nelle categorie che avevo subito messo all'indice, no, picchiare le donne. Io ho tenuto le mani in tasca. Ecco, ha fatto bene, però la voglia di mettere le mani addosso l'ha avuta. Forza voglia, ragazzi, ma quella si ritiene esclusa perché è escluso dall'argomento della giornata. La differenza fra noi esseri che ci riteniamo civilizzati e chi si dimentica di essere persona civile è proprio nel riconoscere i nostri istinti, le nostre pulsioni e saperli dominare. Guai a dire mai nella vita avrei voluto mettere le mani addosso a qualcuno. Io vorrei spaccare la testa a decine di persone ogni giorno, ma non lo faccio e mai lo farei nella vita. Però non mi sento di dover nascondere questo istinto, che significa che ancora sono un essere umano probabilmente. Ecco, in linea puramente teorica, sarei disposto a mettere le mani addosso, a sparargli in bocca, a rompergli il capo, non so, qualsiasi cosa così, a chi mi provasse a portare in una questione legale, in tribunale, perché dopo anni di avvocati per il divorzio ho un odio tale per la giustizia civile, naturalmente, quella penale è un altro discorso. Sì, ho capito, ma è una catena da cui non esce più, perché se lei mette le mani addosso a chi la denuncia, questo la ridenuncia. Infatti tengo le mani in tasca, fa però molto bene. A un certo punto potrebbe. Non mi è successo, perché sono pacifico, non le dico quasi mai con nessuno. Chiacchiero, si discute, magari si bercia un pochino, ma insomma. Va bene, mettersi le mani in tasca mi sembra un ottimo consiglio, facciamo che sia la parola essenziale di questa trasmissione, se no veniamo facilmente fraintesi come istigatore alla violenza. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno Gianluca. Sì, niente, io mi occupo di sicurezza ormai da una quindicina d'anni, locali notturni, e insomma posso dire di averne viste di tutte, e comunque ho notato che insito in ognuno di noi c'è una belva che dorme, perché ho visto uomini tranquilli trasformati in animali, e addirittura di recente mi sono capitate due donne, anche loro non scherzano, che ho dovuto veramente strapparle le mani dai capelli dell'altra, perché insomma si vedono parecchie cose pesanti. Ma questo avviene, diciamo, lei ha detto in locali notturni, quindi delle circostanze già abbastanza diversa normalità. Le persone magari hanno bevuto, si sono fatte chissà una pista di coca, sì, sono molto esaltati. Alterati, in effetti, un po' alterati. Però quello che diciamo è la mia esperienza, in quanto diciamo io arrivo nel momento in cui non mi occupo, cioè non creo la rissa, non la genero, cerco diciamo di sopprimerla e vado, diciamo, se io devo allontanare una persona dal locale, io preferirei neanche calma. È logico che nel momento in cui la persona non vuole uscire e oppone resistenza, quando è palese che non può rimanere più in mezzo a degli altri esseri umani, io ci devo mettere della forza e vado, diciamo, a seconda di quello che lui mi dà. Nel senso, se ti devo spingere mi basta la spinta, mi fermo lì. Se tu cominci a muovere le mani, le muovo io. Cioè, ho sempre quella dose di autocontrollo, anche se non sempre semplice, che mi porta, diciamo, a non andare oltre, perché insomma io sono 1,90, peso 110 kg e 20 anni che mi alleno, mi rendo conto che posso essere veramente pericoloso. Qual è il punto massimo a cui è andato? Cioè, se uno gli dà un pugno, lei può restituire il pugno? Ogni situazione, Gianluca, ha una storia, cioè generalizzare, però io personalmente sono andato in situazioni abbastanza pesanti dove ho dovuto sdraiare delle persone, perché purtroppo arriva ad un certo punto che niente, non sono più consapevoli, lì è un istinto, ti sale l'adrenalina, capisci che questa persona vuole ledere la tua persona. Il problema è che più esce sangue più sale l'adrenalina e quindi non si fermerebbe mai. Non sono a livello di animale, perché avendo comunque anche avuto esperienze e tuttora di combattimento, diciamo a livello di sport da contatto fisico, sono un po' abituato. All'inizio ero un po' più agitato, un po' più quello che animale è. Poi è logico che più sei lucido più sei pericoloso comunque, perché è la lucidità che ti porta a saper cosa fare, è la persona agitata che comincia a tirare pugni a destra, a sinistra, è capace che si trova davanti a un muro, non c'è neanche più la persona perché non ha capito. Grazie, più. Grazie. Melog 2.0. È un duro, è un grande, è un mito. Il suo nome è Chuck. Chuck. Il suo cognome è Norris. Una volta si credeva che Chuck Norris avesse perso uno scontro con un pirata, ma è un falso, creato da Chuck Norris stesso per attirare più pirati su di lui. Quando la moglie di Chuck Norris ha bruciato il tacchino il giorno del ringraziamento, Chuck ha detto: "Non preoccuparti, tesoro." Si è diretto nel cortile dietro casa. Dopo 5 minuti è rientrato con un tacchino vivo, lo ha ingoiato e quando l'ha tirato fuori, pochi secondi dopo, era interamente cotto in salsa di mirtilli. Alla richiesta di spiegazioni da parte della moglie, Chuck l'ha colpita in volto con un calcio volante e ha dichiarato: "Mai discutere con Chuck Norris." Quelli che scorrono alla fine di una puntata di Walker Texas Ranger non sono i titoli di coda. In realtà è la lista delle persone che hanno ricevuto un calcio volante in faccia da Chuck Norris quel giorno. Chuck Norris una volta diede un calcio volante così veloce che il suo piede oltrepassò la velocità della luce, tornò indietro nel tempo e uccise l'esercito persiano schierato davanti a Maratona. Questi sono soltanto un assaggio dei Chuck Norris facts, sono le storie improbabili e paradossali che da anni i fan dell'eroe dal calcio volante circolare di Walker Texas Ranger sta suscitando. E intorno a Chuck Norris si è creata tutta questa sorta di fantastica maniera di creare episodi assurdi, ma sempre al centro c'è lui, l'eroe che comunque riesce a risolvere tutte le questioni e riportare alla giustizia attraverso una forma di espressione fisica. Io vedo sempre più le persone che stanno manifestando questo loro desiderio nascosto, perlomeno questa loro non censura preventiva di fronte al fatto che una volta nella vita potrebbe esserci una situazione in cui menare le mani, usare le mani potrebbe essere una soluzione accettabile e anche giusta di una situazione di profonda estrema ingiustizia che si stia subendo. C'è un ascoltatore, Massimo, mi sembra, lo sto cercando, che dice giustamente: non tutti sono evoluti dal punto tale di riuscire a far male con le sole parole. Chi non riesce a far male con le sole parole, chi non ha più argomenti, probabilmente è una persona meno civilizzata degli altri, ma è una persona che in quel momento non aveva altro da fare. E questo forse è il caso di una nostra ascoltatrice che ha voluto lasciarci una testimonianza di come lei una volta nella vita ha menato le mani, anzi i piedi. Ciao stavo sistemando la spesa nel cofano della mia macchina, quindi ero piegata a 90 gradi. Questo tipo avrà avuto 40-45 anni, mi si è attaccato dietro, non per sbaglio, insomma la cosa era voluta sicuramente. C'era buio, potevano essere le 7 di sera, era d'inverno. In quel periodo avevo dato l'esame di cintura blu di kickboxing e gli ho scaricato l'intero esercizio dell'esame. Io mi sono girata immediatamente, gli ho fatto una spazzata, è caduto per terra immediatamente, gli ho dato qualche pugno. Certo, se avesse praticato Pilates o aerobica, scaricargli addosso l'intero esercizio sarebbe stato impossibile, ci voleva una musica di sottofondo, ma la nostra ascoltatrice faceva kickboxing e quindi ha risolto così la sua questione. L'ho presa a calci in faccia, nel collo, in faccia, e mi ricordo questa scena del tacco che è finito dentro la sua bocca, un tacco 10 centimetri, non un tacchetto basso, e questa cosa mi è proprio piaciuta perché deve averle fatto molto molto molto male. Ho reagito in questo modo, distinto chiaramente, ma in una situazione di questo genere non avrei sicuramente potuto dirgli scusi, si stacca dal mio sedere, scusi, si può spostare, mi sta infastidendo. Ero sola in questo parcheggio, c'era buio, istintivamente mi sono difesa. L'ho spiazzato perché non si aspettava una reazione di questo tipo. Poi mi sono salita in macchina e sono andata via. Questa naturalmente è una situazione da manuale. Nessuno mai denuncerà una signora che gli ha infilato un tacco in bocca perché l'aveva appena molestata. Nessuno si accorgerà mai di quello che accade in un parcheggio senza luce. Nessuno probabilmente tenterà più di appoggiarsi lubricamente nel sedere di una signora che sta mettendo la spesa nel bagagliaio della propria macchina dopo aver ricevuto quello che ha ricevuto l'incauto molestatore di questa nostra ascoltatrice. Buongiorno Liliana. Ciao Gianluca. A te è successo qualcosa di simile? Diciamo qualcosa di simile. Io ero nel mio ambiente di lavoro, premesso che faccio la restauratrice, quindi ero in un cantiere, e questo era il mio collega di lavoro, cioè la persona con cui avrei dovuto condividere questo lavoro per un po' di mesi. E siccome era da tempo, molti mesi, che mi molestava in tutti i modi. Ci provava, insomma. Ma di brutto, molestie fisiche, psicologiche, sessuali, telefoniche. Una volta ho trovato 64 chiamate non risposte sul mio telefono, cioè, ero veramente allo stremo, non ce la facevo più. Ieri abbiamo fatto una puntata sullo stalking, sì. Abbiamo parlato con psicologi, abbiamo parlato con terapisti, ma non è venuta fuori poi quest'altra maniera di risolvere il problema dei molestatori. Vai avanti. Sì, esatto, può essere un altro momento. Io sinceramente non l'avevo previsto. È successo che poi un giorno, siccome il committente l'aveva poi allontanato dal cantiere, anche perché poi c'erano negligenze varie anche sul lavoro, un giorno è venuto a ritirare quelle quattro cose che aveva di suo, e io mi accorsi che tra le cose che aveva preso c'era anche qualcosa di mio, c'era un faretto, una prolunga, quindi una cosa di un valore ridicolo proprio. E allora gli ho fatto la battuta come per dire: sei proprio un pezzente, addirittura guarda, mi scadi proprio così e ti vuoi portare via anche queste poche cose. Lui si vede che l'ho toccato proprio nel vivo, cosa ha fatto? Mi ha cominciato a prendere a calci e io veramente gli ho sferrato il classico destro in mezzo alla fronte, ma ben pensato, e lui, cioè, i suoi occhiali sono partiti a 10 metri di distanza, e a questo punto lui ha di nuovo cominciato a prendermi a calci. Io l'ho preso per un orecchio, l'ho buttato fuori e mi sono chiusa dentro al portone. Poi tu non hai fatto arti marziali, hai picchiato così, sì, alla burina come una volta? No, io ho fatto, purtroppo avevo anche fatto arti marziali, per quello che poi l'ho preso per un orecchio e l'ho portato fuori, perché penso proprio che una volta che si innesca questo meccanismo che tu metti le mani addosso a una persona, poi non sai dove ti fermi, soprattutto se sai dove colpire. Quindi sinceramente mi sembrava la soluzione migliore. L'ho preso, l'ho buttato fuori e mi sono chiusa dentro, poi avevo una rabbia tremenda, non sapevo come sfogarla. Se no veniva fuori la sindrome da smontaggio fisico di un altro essere umano. Sentiamo Francesca. Francesca. Sì, buongiorno. Volevo raccontare la mia esperienza. Praticamente dopo il parto io ho vissuto la crisi postpartum e mi sentivo incapace di esprimermi a parole e più di una volta mi sono espressa fisicamente. Normalmente le donne piangono nelle crisi postpartum. Lei cosa ha fatto? Io piangevo alzando le mani. E picchiava chi? No. picchiavo, insomma, davo qualche calcio al mio compagno, cercando di farmi capire perché non mi sentivo compresa. E capita la gravità della cosa, sono anche andata in terapia e per fortuna è passato tutto, però in quel momento io sentivo la necessità di esprimermi fisicamente e credevo che quello fosse l'unico modo per farmi capire. Comunque è passato un momento particolare, non reagiva in realtà a una violenza su se stessa, aveva semplicemente trovato una maniera per incanalare il disagio. Molto meglio che pigliasse a calcio il suo compagno, piuttosto che come fanno molte persone in crisi postpartum, se la prendono con il bambino, che magari è più indifeso. Assolutamente, però in quei momenti io sentivo proprio di toccare il fondo, perché non riuscivo proprio, le parole mancavano, e è grave. Bene, grazie Francesca. Adesso al telefono Paolo Adecaro, che è Sifu, cioè maestro ad alto livello di una disciplina di arte marziale che si chiama Wing Chun, per la scuola Giunca Rossa. Paola, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Paola, quanto sei alta e quanto pesi? Allora, io sono bassa 1,60 e peso 49 kg. Ecco, tu sei maestra di arti marziali, quindi sai come difenderti. Sì. Nella tua vita ti è mai accaduto però di esercitare quello che hai imparato in palestra per strada? Purtroppo sì, mi è accaduto un paio di volte, dico purtroppo perché comunque essere aggrediti non è mai un'esperienza piacevole, anche se poi se ne esce vincitori, tra virgolette. E mi è capitato, e per fortuna è andato tutto bene. Cioè è andato bene per i tuoi avversari? No, è andata bene per me. Nel senso che mi sono riuscita a difendermi e non ho avuto... Ma spiegami l'episodio, perché vediamo la dinamica dell'aggressione, perché finora abbiamo sentito delle semiprofessioniste, vorrei capire una professionista come si comporta in questa situazione. Gianluca, se me lo consenti, più che raccontarti l'esperienza, per carità, una volta è stato un tentativo di scippo, io chiaramente mi sono difesa, questa persona è finita fortemente picchiata per terra, io ho recuperato la mia borsa e sono tornata a casa. Ma più che questo vorrei raccontarti gli episodi in cui non ho usato le mani, perché credo che sia un po' più importante questo. A me è capitato di essere minacciata verbalmente, ma minacciata a livello di ti spacco la faccia, e di fronte alla mia reazione di ok, butto per terra la roba che c'ho in mano, d'accordo, spaccami la faccia, vedere gente mettersi seduta, girarsi e andarsene. Quindi un atteggiamento di... espressione di capacità di poter reagire, che mette già l'avversario vigliacco in maniera di non farti più offesa. Assolutamente, cioè quello che io cerco disperatamente da anni di far arrivare. L'aggressività, io ho seguito con molto interesse la trasmissione, quello che trovo io è che l'aggressività sia una componente assolutamente naturale di ogni essere umano. E non vada repressa, vada incanalata e bisogna imparare a saperla usare nel modo giusto. Il fatto di conoscere la propria capacità di essere aggressivi e soprattutto di sapere come eventualmente utilizzarla nel momento del bisogno, chiaramente io sto parlando di difendersi. Ma senti Paola, siccome devo dare un attimo la linea per le informazioni del traffico, tieni da parte il consiglio pratico che daremo fra qualche istante alle ascoltatrici in ascolto, alle ascoltatrici che stanno seguendo, come avere una reazione che non sia necessariamente violenta o sanguinosa o cruenta per dimostrare all'uomo, all'aggressore più forte di noi che ci sta in quel momento facendo un torto, che noi siamo anche in grado di reagire. Melog 2.0. Si dà il caso che questa azienda abbia una spiaggia privata, e questa spiaggia privata si dà il caso che sia particolarmente bella quando il chiaro di luna l'avvolge, e neanche farlo apposta c'è la luna piena stasera. Quindi, spadaccina, se vuoi un duello suggerisco di farlo lì. Io e te abbiamo una faccenda in sospeso. Parole sacrosante. Pai Mei ti ha insegnato la tecnica dell'esplosione del cuore con 5 colpi delle dita? Sì, certo. Perché non me l'hai detto? Perché sono una persona cattiva. No, tu non sei una persona cattiva. Tu sei fantastica. Black Mamba, dopo due film della saga di Kill Bill, uccide finalmente David Carradine, non con la spada, non con le pistole, non con le armi che ha usato in tutta questa sua tormentata esistenza, ma con i 5 colpi per spaccare il cuore. fantasmagorica rilettura di Tarantino dei film di arti marziali che impazzarono negli anni 70, il vecchio maestro di arti marziali insegna il colpo più segreto. Si tocca 5 volte il torace dell'avversario, questo fa 5 passi e gli scoppia il cuore, ma nella realtà non accade mai così. Paola De Caro, insegnante di Wing Chun, scuola Giunca Rossa, ci eravamo interrotti sui consigli da dare alle donne per abbozzare una reazione che potrebbe salvare anche la vita. Non sono i 5 colpi per spezzare il cuore, naturalmente. I 5 colpi per spezzare il cuore non esistono. La realtà, anche se rischio di essere impopolare, è che per difendersi da qualcuno che ci vuole fare del male dobbiamo essere in grado noi di fare molto male a lui. Sembra una legge vecchia come il mondo. Sì, è l'assoluta verità. Questo chiaramente richiede uno studio, non è possibile pensare di fare un comodo corso in 10 lezioni come imparare ad uccidere un aggressore in 10 comode lezioni, e richiede uno studio, richiede molto impegno, perché comunque sono discipline che hanno... un'arte marziale derivata dal Kung Fu che nasce proprio, mi sembra, da una suora, da una monaca cinese, che doveva difendersi in qualche maniera. Sì, allora la leggenda vuole che il Wing Chun sia stato creato appunto da una monaca buddista che voleva vendicare il tradimento subito dal suo monastero, che era stato distrutto per colpa di un monaco traditore. Adesso questa è una leggenda, in realtà come tutte le cose cinesi è semplicemente, in realtà vuole simboleggiare il fatto che è una disciplina nata per i deboli contro i forti, al di là del fatto che poi sia più o meno vero che sia stata una donna a crearlo, però è assolutamente una disciplina che nasce con l'idea che chi viene aggredito è per definizione più piccolo, più forte, più debole, meno capace della persona che aggredisce. Quindi Paola, poi per dare realtà, e non soltanto, abbiamo parlato di film, di sogni, di illusioni, di mitologie, esiste una possibilità concreta per una persona debole di avere una reazione fisica efficace nei confronti di un aggressore molto più forte di lei, o soltanto film di Bruce Lee? No, o immaginazione? Assolutamente la possibilità esiste. Io sono 17 anni che pratico e 10 anni che insegno Wing Chun, e a parte la mia personale esperienza, in cui io 2 volte comunque mi sono difesa, è successo anche a diversi miei allievi di trovarsi in difficoltà e di riuscire tranquillamente a cavarsela. Quindi è una testimonianza che ti do assolutamente in maniera certa, perché sono assolutamente sicura. Chiaramente. Ma mi viene da pensare, tante volte vedo signore, anche della mia stretta cerchia familiare, consumarsi ore di sudore, di fatiche, di energie nel saltellare su delle pedane, nel stare dentro delle macchine di contenzione per modellarsi il fisico. Lo stesso tempo impegnato in un'attività salutare potrebbe anche aiutarle a vivere più tranquille? Assolutamente sì, anche perché il lavoro fisico, quindi salutare, anche tra virgolette, chiamiamolo estetico, sul corpo, nelle discipline marziali esiste, solo che accompagnato a una finalità utile, cioè l'imparare a difendersi. Purtroppo dovremmo cominciare ad accorgerci che non viviamo più nel mondo di 50, 60, 70 anni fa, purtroppo viviamo in un mondo che diventa ogni giorno più violento e molto anche contro le donne. Tu hai esordito la trasmissione parlando del discorso delle aggressioni in casa, in famiglia. Sì, sono tutti bravi a menare la moglie, i bambini e le persone deboli, grazie, ma nessuno può fare a meno di alzare la testa o di fare una minima reazione quando incontra un bulletto per strada. Se ciò fosse insegnato sin dalla tenera età, esisterebbe anche molto meno, secondo me, il problema del bullismo nelle scuole, che in realtà, e saluto Paola De Caro, si alimenta con delle mitologie fantasmagoriche. Durante l'incontro la paura è la cosa più importante che dovrebbe avere tutti i lottatori. Io sempre ho un po' di paura nei miei combattimenti. Qua in Italia, quando guardano l'orecchia, pensano che c'è una malattia, delle volte, o pensano, la maggior parte mi dicono che mi hanno morso. Alle donne piace il ragazzo capelli corti con le orecchie rotte. In fin dei conti siamo animali, no? Però quindi un po' di noi, sarà anche l'1%, però dentro di noi c'è sempre una fase aggressiva. Consiglio che darei a tutte le persone che litigano per un parcheggio, o fuori la discoteca o lo stadio, entrare dentro una palestra e sfaga i propri istinti con un sacco. Lo sport che facevo in modo controllato, in modo intelligente, per incanalare la violenza. Questo è esattamente l'antitesi vivente dell'eroe del Fight Club che abbiamo parlato all'inizio, lo yuppie in giacca, cravatta, molliccio, nevrotico, distrutto dalla propria routine professionale. E questo invece è il campione italiano di valetudo, è Alessio Sacara, questo giovane coperto di tatuaggi, si fa chiamare il gladiatore, qualcosa del genere, il legionario, ecco, il legionario è colui che si combatte e si batte in questa lotta di origine brasiliana che appunto si chiama Vale Tudo perché no, vale tutto, tutti i colpi sono ammessi, combattono dentro delle grandi gabbie quasi per isolare la loro violenza dal pubblico che molto spesso scommette su di loro, poi esiste tutta una casistica di illegalità in Brasile legata a questa lotta. In Italia viene fatta come uno sport, ma uno sport comunque molto violento, molto reattivo. Nei combattimenti si vede quando l'avversario è a terra, il suo antagonista gli monta sopra e lo prende a pugni in faccia, anche quando lui sta con le spalle a terra. Quindi è molto vicino allo scontro fisico reale. È una riproduzione proprio degli antichi combattimenti dei gladiatori che servivano appunto per dare l'ebbrezza del sangue al popolo e tenerlo buono. Abbiamo al telefono un nostro ospite ricorrente con cui vorremmo concludere questa trasmissione con qualche riflessione, è Giuseppe Neri, psichiatra e neurologo, conosciuto all'aeroporto di Fiumicino e quindi consacrato a eroe della lettura del profondo in questa trasmissione. Giuseppe, buongiorno. Ciao Gianluca. Giuseppe, noi siamo in un bivio, siamo come il funambolo sospeso fra due punti. Da una parte c'è Alessio Sacara, il gladiatore contemporaneo che schizza sangue e si vanta le sue orecchie smordicchiate a colpi degli avversari, cioè le donne piacciono. D'altra parte esiste l'uomo molliccio metropolitano che non sarebbe capace di alzare un dito, magari capace di violenze inenarrabili, potrebbe rovinare un suo avversario facendolo piangere per tutta la vita, ma non sarebbe capace a fare una reazione nemmeno alzando un dito. Ecco, qual è la situazione in cui ci troviamo in questo momento fra una forza belluina che abbiamo ormai elaborato e incanalato altrimenti e una violenza percepibile comunque in mille manifestazioni di cui ogni giorno leggiamo cronache meravigliose? Beh, secondo me il campione di Vale Tudo è un modello molto utile quando riflettiamo su alcuni aspetti, cioè Vale Tudo vuol dire si può fare qualsiasi cosa, non ci sono regole. E noi viviamo in una società che è sempre più pervasa da questo concetto che non ci sono regole per cui ognuno si fa giustizia da sé, ma soprattutto il campione di Vale Tudo secondo me si rifà a quel modello di aggressività che è un modello biologico, naturale, etologico, che noi abbiamo ereditato nell'evoluzione degli animali. Sì, ma noi abbiamo mantenuto tutta la nostra aggressività, l'uomo civilizzato cosiddetto ha dei canali legali, diciamo, o accettati per esprimere la massima aggressività. Assolutamente, ma noi partiamo da una base per cui ci aggrediamo, combattiamo per la gerarchia, per il territorio, per la femmina. Il guaio è che in milioni di anni siamo evoluti, abbiamo sviluppato la corteccia cerebrale e allora abbiamo ritualizzato la nostra aggressività, da cui lo yuppie o il fighetto come dici tu, soltanto che quella è molto più pericolosa perché è molto più intellettualizzata, è molto più confacente ai nostri modelli culturali e quindi è capace di esprimersi con modalità fisiche e non fisiche, estremamente più raffinate ma anche molto più destruenti. Ecco, quando avviene la rottura però di livello, quando impazzisce questo sistema di contenzione della propria aggressività, quando vediamo i delitti in famiglia, quando vediamo improvvisamente scatenarsi persone apparentemente normali, quando il vicino di casa diventa un assassino, quando? Secondo me la verità che forse non abbiamo tanta voglia di ammettere è che noi siamo circondati e forse noi stessi siamo degli assassini potenziali che per una serie di circostanze relazionali in un certo momento, in una certa situazione riusciamo a trovare il modo di fermarci un gradino prima, però al di là delle pulsioni individuali per fare riferimenti classici, il sistema di relazioni che la nostra società costruisce fa da trigger, cioè fa da grilletto, fa da detonatore che favorisce molto che questa carica esplosiva parta e faccia i suoi danni. Senti, lo psichiatra che aveva in cura il protagonista di Fight Club, quando lui voleva i farmaci perché non dormiva, diceva: ma guarda, se tu sei angosciato che soffri di insonnia, vai a vedere i gruppi di autoaiuto dei malati di tumore testicoli, vedrai che poi ti addormenterai e da lì invece nascerà la sua follia. Tu oggi quale consiglio daresti a qualcuno che dice... Sono due aspetti, io non conosco il film, ma mi viene in mente uno che sia un film americano e due che sia uno psichiatra di scuola analitica. Questo è un tipico modello culturale di tipo anglosassone, americano, schematico, molto efficiente. No, da noi bisogna pensare alla storia delle singole persone, alle loro radici relazionali, familiari, sociali, e molto tagliare su misura per la persona le soluzioni. Non ci sono ricette buone per tutti. Grazie Giuseppe, e il consiglio in conclusione di questa settimana, di questa tormentata trasmissione, è quello che ci ha dato il primo dei nostri ascoltatori. Mi raccomando, nonostante tutto ciò che abbiamo detto, pensato e riflettuto questa mattina, tenete le mani in tasca. A lunedì. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.